Le incursioni dei nomadi. Già negli anni 40, lo studioso della preistoria europea Gordon Child osservava le testimonianze archeologiche di un drammatico cambiamento avvenuto nella preistoria. Child riferiva di segni che indicavano il passaggio da un'organizzazione matrilineare a un'organizzazione patrilineare, la graduale scomparsa delle figurine femminili un tempo onnipresenti e prove sempre più numerose di lunghe guerre. Collegava questo passaggio, che chiamava la crisi del tardo neolitico, al collasso dei piccoli insediamenti e all'adozione di modi di produzione sempre più fondati sulla pastorizia e sull'allevamento degli animali. In particolare, Child collegava questa crisi del tardo neolitico alla comparsa sulla scena archeologica europea di un nuovo elemento, la popolazione che studiosi della preistoria e linguisti chiamano indoeuropea. Ma Child, come Hitler, idealizzava questi proto-indoeuropei quali fondatori della cultura europea, affermando che erano dotati di eccezionali qualità mentali ed erano promotori di vero progresso. Ben pochi indoeuropeisti oggi idealizzerebbero tanto apertamente gli indoeuropei o ariani, come pure vengono chiamati. E ciò non solo per l'uso fin troppo efficace di questa mitologia fatta dai nazisti nel tentativo di giustificare lo sterminio degli ebrei e di altre razze inferiori. La ragione primaria, come osserva l'indoeuropeista Mallory, è che in effetti sono scarsi, se non inesistenti, i successi culturali attribuiti ai proto-indoeuropei, in quanto, come scrive, li si incontra primariamente nella posizione di distruttori di precedenti culture. Mallory, Gimbutas e altri studiosi sottolineano anche il fatto che le lingue indoeuropee sostituirono quasi completamente le precedenti lingue note in Europa e in altre regioni del mondo antico. Sta a dimostrare che il passaggio fondamentale nella cultura occidentale che abbiamo esaminato non avviene come una naturale progressione dell'evoluzione sociale. Perché questa nuova lingua è chiaramente connessa alla comparsa di un nuovo nucleo che distrusse le società preesistenti, ovvero le assoggettò gradualmente, tanto che alla fine sopravvissero soltanto pochissime delle precedenti lingue non indoeuropee, quali per esempio l'etrusco, parlato in alcune zone d'Italia fino all'epoca romana, e il basco, tuttora parlato nella zona attorno ai Pirenei tra Spagna e Francia. Riassumendo il pensiero condiviso dalla maggior parte degli indoeuropeisti contemporanei, Mallory scrive: nel corso del quarto millennio, gli archeologi individuano una riorganizzazione strutturale della società nella maggior parte dell'Europa sudorientale. Osserva che la prova sta nell'abbandono dei siti dei Tell Fioriti per parecchi millenni, nello spostamento di precedenti culture in quasi tutte le direzioni, ma non verso Oriente, nel movimento verso siti marginali quali isole e grotte, ovvero sulla cima di colline facili da fortificare come Cernavoda 1, e in un generale deterioramento delle principali tecnologie del Neolitico, cioè la manifattura di ceramica e la lavorazione del rame. Come mette in rilievo, l'abbandono e il movimento, che spesso incoraggiarono la commistione tra culture confinanti, operarono tuttavia contro un background non solamente di tracce elusive di ibridizzazione con le culture della steppa, quali Usatovo e Cernavoda 1, ma anche con continue incursioni di pastori nomadi. La documentazione di gran lunga più dettagliata di questo processo è fornita da Gimbutas, che la trae dagli scavi da lei stessa condotti e dall'opera di molti altri esperti archeologi. Gimbutas chiama Kurg questi intrusi proto-indoeuropei perché portarono con loro l'uso dei Kurgan, cumuli sepolcrali diffusi nella zona arida nei pressi del Mar Caspio, detta Steppe dei Kirghisi, appartenente all'ex Unione Sovietica, che ritiene essere stata la loro terra d'origine. Designa inoltre tre ondate di incursioni kurgane in Europa. La prima intorno al 4300-4200 a.C., la seconda intorno al 3400-3200 a.C. e la terza ondata, la più devastante, intorno al 3000-2800 a.C. Un tema centrale nell'arte dei Kurg e dei successivi indoeuropei fu, come osserva Gimbutas, la deificazione del potere di dominare e distruggere, che talvolta nel periodo più antico è rappresentato in figure semi-antropomorfe di divinità le cui braccia sono alabarde o asci dai lunghi manici, e successivamente indiai a cavallo che brandiscono delle armi. Come descrive nel suo ultimo libro, The Civilization of the Goddess, queste divinità maschili armate erano perfettamente consone a un'organizzazione sociale con classi di sovrani e guerrieri che avevano padroneggiato il cavallo e le armi da guerra. In contrasto con l'antica simbologia di una creatrice, nella simbologia indoeuropea sono le divinità maschili a creare la vita. In effetti, talvolta vi pervenivano usando le armi, in quanto, come scrive Gimbutas, il tocco della lama dell'ascia sarebbe bastato a risvegliare i poteri della natura e a trasmettere la fecondità del dio del tuono. E invece di essere la dea a riprendere la vita nel proprio seno, qui, come scrive Gimbutas, il terrificante dio nero della morte del mondo sotterraneo segnava il guerriero destinato a morire con il tocco della punta della lancia e glorificava poi l'eroe caduto. Non sorprende il fatto che questa idealizzazione delle armi e la glorificazione dei guerrieri eroici si accompagnò al pensiero ossessivo della morte. Siccome gli indoeuropei non credevano nella rigenerazione ciclica della vita, si dovevano predisporre preparativi, specie per gli eroi caduti nel mondo sotterraneo, oscuro e malsano dei morti. Di conseguenza, scrive Gimbutas, venivano costruite case mortuarie in cui i defunti portavano nell'aldilà i loro beni, strumenti, armi e gli ornamenti che rappresentavano il loro rango. Sempre in armonia con questo sistema di credenze, le tombe dei capitani spesso contenevano tra i doni funebri le ossa di animali sacrificati per accompagnare e servire i loro padroni. Di particolare importanza erano le ossa dei cavalli. Per la verità, l'importanza del cavallo per queste popolazioni è messa in rilievo da tutti gli indoeuropeisti. Vedi il libro di Mallory, che per una curiosa svista non ospita un indice analitico per le donne, anche se fornisce 7 righe di citazione di pagine per i cavalli. Spesso questi capitani erano sepolti anche assieme a tutti gli abitanti della casa, mogli, domestici o figli. In altri termini, in queste sepolture, per la prima volta nella preistoria europea, rinveniamo tombe di maschi di alto rango, che contengono anche gli scheletri di donne sacrificate. I Kurg introdussero inoltre l'istituto della schiavitù in Europa. I ritrovamenti archeologici indicano che in alcuni campi kurgani il grosso della popolazione femminile apparteneva non ai Kurg, ma all'antica popolazione neolitica europea. Ciò suggerisce, osserva Gimbutas, che i Kurg massacrarono la maggior parte degli uomini e dei bambini, ma risparmiarono alcune delle ragazze e delle donne, che si presero come concubine, mogli e o schiave. Una pratica dei pastori guerrieri documentata anche nei racconti biblici. Infatti, quando Canaan fu invasa dai Madianiti, pastori che lo veneravano, Yahweh ordinò di uccidere tutti gli abitanti delle città madianite conquistate, a eccezione delle ragazze vergini. Dunque, è indubbio che piuttosto che essere portatrici di civiltà all'Europa, e questo ancora è ancora il messaggio delle lezioni di storia che iniziano con i greci indoeuropei, la comparsa dei Kurghi indoeuropei nell'Europa preistorica segna l'inizio della fine di una civiltà più orientata sulla partnership. Perché quel che ora vediamo nella documentazione archeologica è la scomparsa di tradizioni millenarie di ceramica dipinta e incisa, dei modelli di templi e delle figurine femminili, poiché gradualmente le culture in cui le donne e i valori femminili non erano state sottomesse e disprezzate venivano distrutte e conquistate, ovvero diventavano società in cui la guerra eroica e il governo, mediante la forza e la paura di una piccola elite maschile, insieme con gli dei della guerra e del tuono, diventava la norma. Il rompicapo delle origini della dominanza. Ma perché mai orde di guerrieri a cavallo, seguiti talvolta dai carri che trasportavano uomini più anziani, donne e bambini, si sono a un tratto diretti verso Occidente? Da dove venivano questi invasori? E fatto più importante, perché si orientarono verso il modello della dominanza? Gimbutas, che non elabora tesi sui motivi per cui i Kurg seguirono quella direzione, è convinta che la loro terra d'origine si trovasse a nord del Mar Nero e del Mar Caspio, nel territorio delle attuali steppe russe. Per lo più, gli indoeuropeisti citano la patria dei proto-indoeuropei in quella che Mallory chiama la regione Pontico-Caspica, un territorio che si estende su quasi 500.000 chilometri quadrati attraverso le steppe europee e asiatiche, sebbene ancora si discuta sull'esatta collocazione e su altri luoghi d'origine pure proposti, alcuni più a oriente in Asia e altri invece più a occidente. Il consenso è invece unanime tra la maggior parte degli europeisti sul fatto che fu nel periodo che va approssimativamente dal 4500 al 2500 a.C. che questi proto-indoeuropei lasciarono l'Eurasia in successive ondate migratorie e portarono così in Europa la loro lingua straniera e i loro diversi modi di strutturare i rapporti sociali e sessuali. Inoltre, come hanno osservato altri studiosi, fu in quello stesso periodo che si produssero sconvolgimenti culturali di grande portata nel Medio Oriente. Scrive per esempio Mellart che intorno al 4500 a.C. si cominciano a vedere chiari segni di stress nel paesaggio archeologico mediorientale. Cominciano a sparire antiche tradizioni artistiche e in molte zone si hanno attestazioni di invasione di catastrofi naturali e talvolta di entrambe. La domanda che a questo punto si impone è che cosa a partire dal 4500-4000 a.C. e poi per parecchi altri millenni poté scatenare così ampi movimenti di popolazioni. Come osserva Gimbutas, con l'addomesticamento del cavallo intorno al 5000 a.C., i pastori si procurarono un mezzo di trasporto e invasero la vecchia Europa. E, come pure osserva, alla fine diventò un formidabile strumento di conquista armata. Il guerriero a cavallo, la cui improvvisa e rapida avanzata rese possibile quella che chiameremmo oggi la Panzer Blitzkrieg dei tempi. Resta comunque senza risposta il perché tanti di questi nomadi dediti alla pastorizia lasciarono le loro terre. E restiamo inoltre con il rompicapo irrisolto del perché svilupparono un'organizzazione sociale tanto bellicosa e a predominio maschile. Forse a questi interrogativi non si troverà mai una risposta definitiva. Ma un altro studioso, James De Meo, che non è archeologo ma geografo, ha avanzato alcune risposte provocatorie e sotto molti aspetti plausibili. De Meo ritiene che in realtà fossero due i territori da cui vennero le prime società androcratiche o della dominanza, che lui chiama Patriste, adottando la terminologia che fu inizialmente introdotta da Red Trey Taylor. Il primo corrisponde all'attuale deserto arabo e secondo De Meo fu il luogo d'origine della società patrista o androcratica. Il secondo è assai prossimo ai luoghi in cui Gimbutas colloca la patria dei Curghi in Eurasia. Ma secondo De Meo copriva un territorio molto più esteso, dalle rive orientali del Mar Caspio all'Asia sudorientale. Chiama queste aree il nucleo centrale patrista asiatico. De Meo attribuisce a dei radicali cambiamenti climatici i massicci spostamenti della popolazione da quelle zone, così come il primitivo emergere di un'organizzazione sociale, sessuale, patrista o della dominanza. Tali cambiamenti, a detta di De Meo, portarono alle invasioni dei pastori, che tanto radicalmente mutarono il mondo antico. In altri termini, secondo De Meo, questi severi cambiamenti ambientali furono la molla che fece scattare una complessa sequenza di eventi, carestie, caos sociale, abbandono della terra e migrazioni di massa, e portarono infine a una trasformazione fondamentale dell'organizzazione sociale e sessuale prevalente in quella che era la corrente principale dell'evoluzione culturale umana. De Meo basò le sue conclusioni su un vasto archivio computerizzato che correlava le informazioni sui cambiamenti climatici prodottisi in migliaia di anni con studi sul campo di centinaia di culture diverse di tutto il mondo e con attestazioni archeologiche. A partire da ciò costruì una revisione geografica globale del comportamento umano e delle istituzioni sociali che, come scrive, rivelava un disegno che era passato in precedenza inosservato ma che era chiaramente delineato. Rilevò l'esistenza di una correlazione nelle società tribali preindustriali tra un ambiente assai duro, la rigida subordinazione sociale e sessuale delle donne, l'equivalenza tra virilità e durezza e bellicosità e la repressione e/o la distorsione del piacere sessuale, tutti temi su cui ritorneremo. Inoltre, il fatto che questo tipo medesimo di organizzazione sociale avrebbe avuto origine in periodi di profondi cambiamenti climatici è direttamente attinente alla questione in esame. De Meo le descrive come epoche in cui la siccità ridusse zone di savane, un tempo verdeggianti e boschive, in aride steppe o deserti, e sostiene che proprio da queste zone, ormai adatte soltanto al pascolo nomade e non all'agricoltura, e in periodi di grave siccità neanche alla pastura, arrivarono ondate le migrazioni e le invasioni di pastori nomadi. In particolare, De Meo riferisce le prove tratte da studi archeologici e paleoclimatici, le quali indicano che la grande cintura che chiama Saharasia, che approssimativamente si estende dall'Africa settentrionale attraverso il Medio Oriente fino all'Asia centrale, non si inaridì prima del 4000 a.C. Produce inoltre dati che indicano come alcuni dei più profondi cambiamenti ambientali nelle zone adiacenti a questi deserti si produssero tra il 3500 e il 3000 a.C., epoca in cui si intensificarono enormemente le incursioni dei pastori nomadi nelle vicine zone dell'Europa e del Medio Oriente. De Meo è convinto, e su questo torneremo in seguito, che esista un collegamento diretto tra modelli patristi o della dominanza nell'organizzazione sociale e sessuale e traumi fisici e o psicologici. Avanza l'ipotesi che, ben lungi dall'essere casuale o accidentale, il formarsi di istituzioni sociali patriste fu risultato di esperienze e pratiche traumatiche che si produssero nel corso di profondi cambiamenti climatici e ambientali. Inoltre, ed è molto importante, avanza l'ipotesi che una volta affermatisi, questi modelli di organizzazione sociale e sessuale furono perpetuati mediante l'istituzionalizzazione del trauma, per esempio mediante pratiche traumatiche di educazione dei bambini che inibiscono efficacemente la respirazione, l'espressione degli affetti e gli impulsi al piacere. Asserisce che queste istituzioni sociali repressive, che come scrive producono una corazza caratteristica, teriologica e muscolare cronica, in vario grado tuttora bloccano non solamente la piena espressione fisiologica ed emotiva, ma anche il piacere sessuale e il pieno appagamento. E ripetutamente mette in evidenza come la distorsione istituzionalizzata della sessualità umana, e in particolare il controllo severo e crudele della sessualità femminile, siano stati i meccanismi primari usati per il mantenimento della società della dominanza o patriste, come lui le chiama. Pastoralismo e corazza psicologica. Mi sono soffermata sulle teorie di De Meo perché in esse, a parer mio, molto suona vero a proposito delle radici sociali e psicosessuali del modello della dominanza. Non penso, come De Meo, che non esistettero società della dominanza o patriste prima del 5000 a.C., poiché ritengo più probabile che in alcune delle zone più aride del nostro pianeta questo tipo di organizzazione sociale si sia sviluppato molto prima, forse nei remoti tempi degli ominidi. Devo inoltre esprimere qualche riserva sulla sua formulazione generalizzata della repressione sessuale, in quanto causa prima di quella che, rifacendosi all'opera dello psicanalista Wilhelm Reich, De Meo chiama corazza psicologica, in quanto non pone abbastanza in rilievo la centralità della subordinazione delle donne nella distorsione della sessualità sia femminile sia maschile. Ma è praticamente fuori discussione il fatto che la repressione, o più propriamente la distorsione della sessualità, e specificamente l'assimilazione di virilità a predominio sessuale e sociale e di femminilità a sudditanza sessuale e sociale, è di fondamentale importanza per il mantenimento di un'organizzazione sociale della dominanza e in particolare per la socializzazione maschile basata sul predominio e la violenza, temi su cui ritorneremo ancora. Pare anche fuori dubbio che i pastori come i Kurghi in origine vennero da luoghi in cui l'agricoltura non era mai stata o non era più possibile. Di qui il modo di vita basato sulla pastorizia è caratterizzato dagli spostamenti periodici. E pare anche indubbio, come propone Reich, che la corazza psicologica, quello smorzamento delle emozioni positive e infine persino la dipendenza dal dolore, è la conseguenza di gravi traumi. Che i traumi possono essere provocati da siccità o da altre pesanti avversità ambientali e che nel tempo i traumi fisici e psicologici possono istituzionalizzarsi attraverso una gamma di usanze, altri temi su cui pure torneremo. In effetti, altri studi supportano la conclusione di De Meo secondo cui gravi difficoltà ambientali possono condurre a un'organizzazione sociale della dominanza. Per esempio, lo studio effettuato dall'antropologa Peggy Reeves Sandey su oltre 100 società tribali indica che, quantomeno in alcune culture, come scrive, gli uomini reagiscono allo stress prodotto da carenza di cibo o dalle circostanze della migrazione riunendosi in bande, escludendo le donne da cerimonie legate al potere maschile e rivolgendo contro le donne l'aggressività. Concordo con De Meo quando afferma che non a caso l'associazione sofferenza-sessualità è caratteristica delle società della dominanza. Infatti, numerose attestazioni indicano che pratiche quali la mutilazione genitale dei maschi, di cui la circoncisione, quale oggi la conosciamo, è residuo molto meno violento, e la mutilazione genitale delle femmine, tuttora praticata in molte delle società più fortemente patriste o della dominanza in Medio Oriente e in Africa, sono state storicamente caratteristiche di quelle culture in cui il predominio maschile, la guerra e l'autoritarismo, il nucleo della configurazione della dominanza, sono portati ai limiti estremi. A mio avviso, peraltro, occorre anche considerare i fattori tecnologici ed economici. Ritengo molto significativo che a diffondere in origine un'organizzazione sociale di tipo androcratico o sul modello della dominanza, nelle regioni più ospitali del nostro pianeta, dove le società agricole orientate sul modello della partnership si erano in origine sviluppate, siano state popolazioni dedite al pastoralismo. In altri termini, penso che il pastoralismo come tecnologia porti più facilmente dell'agricoltura all'organizzazione sul modello della dominanza. Per cominciare, il pastoralismo nomadico, quale tecnologia primaria per la sopravvivenza, si sviluppa in zone che non furono mai fertili, ovvero per via di cambiamenti climatici e ambientali di altro tipo. A un certo punto non furono più adatte all'agricoltura. Ma il pastoralismo o allevare gregge di animali quale fonte di cibo primaria a volte unica non è soltanto il risultato di ambienti inospitali, ma è anche di per sé un fattore che contribuisce a rendere inospitale l'ambiente. La ragione sta nel fatto che il pastoralismo, ancora più dell'attuale allevamento di bestiame nelle fattorie, è ecologicamente insano. Esaurisce infatti le risorse naturali, poiché il bestiame pascola su terreni che non vengono mai seminati né fertilizzati e diventano dunque sempre più poveri. Pertanto, come dimostra la desertificazione dei terreni da pascolo durante la preistoria in epoca storica, il pastoralismo è una tecnologia che anche in assenza di cambiamenti climatici porta a un certo momento a un progressivo inaridimento della vegetazione e quindi a un ambiente sempre più inospitale. Questo esaurimento dell'ambiente avrebbe prodotto le conseguenze più gravi in zone già talmente marginali che soltanto cammelli, capre e o pecore, e per certo non i bovini, potevano sopravvivere, come tuttora accade in ampie zone delle steppe sahara-asiatiche. Ciò avviene, come oggi vediamo fin troppo bene, con un sistema della dominanza che minaccia di distruggere le foreste tropicali, poiché l'inaridimento della vegetazione fa sì che le piogge diminuiscano e si produca il fenomeno della siccità. Vorrei dunque aggiungere alle teorie ambientalistiche di De Meo un forte fattore tecnologico ed economico. Per certo, alcune colture esauriscono gravemente il suolo, con il risultato che si riducono la vegetazione e le piogge. Ma il pastoralismo, come tecnologia di per sé, tende a produrre aridità. Ed è la progressiva distruzione o dominazione della natura, senza la messa in atto di misure per la rigenerazione, che nella nostra preistoria deve avere ampiamente intensificato un altro problema che tende ad accompagnarsi al pastoralismo, la competizione per acqua e terra tra gruppi di pastori. In breve, il pastoralismo tendenzialmente produce un circolo vizioso di esaurimento delle risorse ambientali e crescente competizione economica per pascoli sempre più scarsi. Qui si accompagna la tendenza a violente contese per i confini territoriali. E furono proprio queste dinamiche e la crescente bellicosità delle popolazioni pastorali preistoriche a portare, in periodi di profondissimi cambiamenti climatici, alle incursioni periodiche da parte di guerrieri pastoralisti, dai Kurgan a Genghis Khan, in zone più fertili, onde impadronirsi con la forza di terreni e proprietà di vicini più fortunati. Infine, nel tentativo di ricomporre il puzzle delle origini del modello della dominanza, emerge un altro fattore ancora attinente al pastoralismo come tecnologia, che a parer mio conviene considerare. Il pastoralismo conta su quello che è fondamentalmente l'asservimento di esseri viventi, esseri che saranno sfruttati per i prodotti che producono, per esempio il latte e previa lavorazione il formaggio, e che saranno poi probabilmente uccisi. In altri termini, mentre nelle società agricole l'allevamento e l'eventuale marcello degli animali è un supplemento alla coltivazione di verdure e frutta, il fattore primario per la sussistenza in un'economia pastoralistica è L'addomesticamento degli animali dalla prima infanzia all'età adulta al fine di macellarli e nutrirsi della loro carne. Ciò spiegherebbe anche la corazza psicologica o smorzamento delle emozioni dolci, che secondo De Meo caratterizzò le origini delle società patriste o della dominanza. Perché è difficile permettersi di provare simpatia e tantomeno vero amore per piccole creature che per quanto tenere devono essere uccise. Istruttivo in proposito è l'addestramento delle SS naziste che fecero funzionare i campi di sterminio. Comprendeva tra l'altro l'ordine di allevare cuccioli, di nutrirli, di curarli in ogni modo, di giocarci e poi di ucciderli senza tradire la minima emozione. Inoltre, se si è abituati a vivere di animali asserviti, per trarne carne, formaggio, latte, pelli, eccetera, ci si abitua pure a considerare l'asservimento di altri esseri umani come un fatto del tutto accettabile. Perché una volta che l'empatia e l'amore in un dato contesto vengono abitualmente repressi, ciò tende a dar luogo a ciò che gli psicologi chiamano appiattimento affettivo, ossia una capacità ridotta e altamente compartimentalizzata di risposta a sensazioni, affetti diversi dalla collera, il disprezzo e simili emozioni forti. Non sto affermando che il pastoralismo porti inevitabilmente alla schiavitù. Chiaramente anche le popolazioni dedite all'agricoltura avevano schiavi, che si trattasse delle tribù primitive d'Africa o di stati civilizzati come l'antica Atene e l'America Latina del XVIII e XIX secolo. Ma qui stiamo indagando sulle origini di questa istituzione e della percezione di metà dell'umanità come di un bene o una proprietà che gli uomini devono controllare e dominare. E il contare quasi esclusivamente sull'allevamento, l'assoggettamento e infine la macellazione degli animali quale fonte primaria per la sussistenza potrebbe servire anche a gettare alcune delle basi psicologiche che inducono a considerare le femmine, animali prima, ma donne poi, come mere riproduttrici o tecnologie sessuali per la riproduzione, quali proprietà del maschio e la cui sessualità non ha altra funzione che di essere controllata e al servizio del padrone maschio. Il pericolo dell'amore sessuale. Da questa più ampia prospettiva diventa rivelatore il fatto che delle donne tuttora spesso si dica che appartengono esclusivamente alla sfera domestica. Ed è pure rivelatore il fatto che tuttora, presso alcuni pastoralisti della regione saharasiatica, solamente gli uomini possono uccidere gli animali, galline comprese, mentre alle donne è esplicitamente vietato. E ancora più rivelatore è il fatto che in queste popolazioni tribali l'amore sessuale tra donne e uomini è sistematicamente scoraggiato, esplicitamente e aggiungerei, a giusta ragione considerato un pericolo per la preservazione delle gerarchie tribali del potere maschile. In Veiled Sentiments, una affascinante cronaca dei 2 anni circa passati a studiare una tribù beduina nel deserto occidentale egiziano, l'antropologa Lila Abu Lugod osserva che l'amore sessuale tra donne e uomini in questa società tribale pastoralista, rigidamente dominata dal maschio, viene non soltanto sistematicamente scoraggiato, ma addirittura proibito. Riferisce che le unioni amorose sono attivamente scoraggiate e contrastate non appena vengono scoperte, e si fa di tutto per minimizzare l'importanza della relazione maritale e per mascherarne la natura di legame sessuale tra uomo e donna. Riferisce anche del disprezzo che uomini e donne riservano agli uomini che soccombono al desiderio sessuale o semplicemente all'amore romantico, assimilato alla dipendenza che per gli uomini è nemica del più grande valore connesso all'onore, l'indipendenza. Riferisce inoltre che le donne sono condizionate al Ta'ashasham, che significa reprimere qualsiasi interesse sessuale per gli uomini ed evitare tutti gli uomini non consanguinei. Per giunta, dalle donne ci si aspetta che non soltanto reprimano, ma davvero neghino la loro sessualità. Le brave donne, scrive Abu Lugod, negano l'interesse per le questioni sessuali e negano la loro stessa sessualità. Per la verità, la donna che non lo fa è considerata una sgualdrina o una puttana. Inoltre, persino le donne sposate devono negare qualsiasi interesse per il marito e tanto più per gli altri uomini. In effetti, le donne sono talmente indotte a considerare la loro sessualità sbagliata, sporca e pericolosa, che riferisce Abu Lugod, la donna in collera insulterà l'altra citando le dimensioni dei suoi genitali, in base al presupposto Chi più i genitali sono grossi, più vorace e insaziabile è il desiderio. Così come il pudore e la modestia sono considerati essenziali per le donne, l'onore degli uomini poggia sulla padronanza delle passioni e delle funzioni naturali, compresa la sessualità. Come Abu Lugod sottolinea, il significato dell'espressione sessuale è molto diverso per le donne e per gli uomini. Negli uomini, qualsiasi testimonianza di affetto o di attaccamento per una donna, persino se della famiglia, è interpretata come dipendenza, il che compromette il diritto dell'uomo di controllare i suoi dipendenti e di averne il rispetto. Ma in una donna, la libera espressione della sessualità è vista come una minaccia all'intero sistema gerarchico maschile, in quanto è considerata, come scrive Abu Lugod, un atto di insubordinazione e di insolenza. Perché in questa società rigidamente dominata dal maschio, l'obbedienza della donna e la sua subordinazione al controllo maschile è necessaria, quale conferma di un'autorità maschile assoluta, il fondamento essenziale di un sistema sociale basato su rigide gerarchie. Come scrive Abu Lugod, agli occhi degli altri, la ribellione di un dipendente disonora il superiore, mettendone in questione il valore morale, ovvero la base stessa della sua autorità. Pertanto, il rifiuto opposto da una donna al Ta Shasham, negare la sua sessualità, destabilizza la posizione dell'uomo che ne è responsabile. Per recuperarla, egli deve riasserire la sua superiorità morale, dichiarando immorali le azioni della donna e deve dimostrare la sua incapacità di controllarla, che si esprime con la violenza. In altri termini, secondo le norme stabilite dall'uomo di questa società a rigido predominio maschile, termini come onore e disonore, superiorità morale e inferiorità morale, responsabilità e dipendenza sono usati per mascherare la dura realtà di un controllo assoluto, di un diritto di vita e di morte degli uomini sulle donne, e dunque anche sulla sessualità e i poteri riproduttivi femminili. Dunque, i delitti d'onore che ancora si perpetrano in zone del mondo arabo sono in realtà espressione della responsabilità che ha l'uomo di ricorrere a una violenza esemplare per mantenere il controllo maschile sulle donne, in particolare sulla sessualità femminile, e di esprimere un concetto della virilità che assimila l'onore al predominio sugli inferiori, le donne per l'appunto. Come Abu Lugod osserva, questa stessa funzione sociale basilare è favorita dall'usanza che impone il chador alle donne. Il velo non è soltanto un modo per rendere le donne invisibili in quanto dipendenti inferiori, ma simboleggia anche, come scrive, l'onta sessuale delle donne e la naturale inferiorità morale delle medesime. In realtà, come mette in evidenza, il chador è nero proprio perché simboleggia il disonore delle donne. Infatti, nella società beduina, della persona disonorata si dice che le sia annerito il volto. Così il velo è un altro simbolo della vergogna di essere donna, e in particolare di quella vergogna che è la sessualità femminile. In un bel esempio si potrebbe arguire dell'interconnessione esistente tra atteggiamenti sessisti e atteggiamenti razzisti. Eppure, a dispetto di tutte queste pesanti inibizioni sociali, le donne, talvolta anche gli uomini, nella società beduina studiata da Abu Lugod, continuano a desiderare l'amore sessuale. In verità, molti Ginnawa, i poeti di queste popolazioni, parlano di amore sessuale, seppure prevalentemente in termini metaforici. E, come è quasi ovvio, di solito si soffermano sugli aspetti dolorosi dell'esperienza. In effetti, molti poeti, in particolare i canti delle donne, ruotano attorno al tema di quelle che Abu Lugod chiama le ferite d'amore.